quelle piccole mani, stringi una morte che vendi disperata agli angoli delle strade. La gente che ti vede spaurita in viso, sola lontano da casa, senza sorriso. Ma quelle piccole mani maneggiano droga infame, e coi soldi vai dove non vorresti mai. Santina dai grandi occhi, santina dalle piccole mani, santina voce gentile, perché prendi quella roba? Santina, io penso a te, alla tua infanzia spezzata, ma penso anche a quelli che comprano da te. Bambina, ma molto crudele, quello che ti circonda è solo odio. Santina, non hai sogni, né amici né giochi, perché il tuo gioco è per pochi. Santina dai grandi occhi, santina con quelle mani, santina voce gentile, perché prendi quella roba? Santina, io grido per te, per la tua infanzia spezzata, ma grido anche per quelli che comprano da te. Guardo in avanti, tanto per pochi istanti, molti rischi, poco domani, da quelle piccole mani. Santina dai grandi occhi, santina con quelle mani, santina voce gentile, perché prendi quella roba? Santina, io grido per te, per la tua infanzia spezzata, ma grido anche per quelli